Van Loon. Dialogando di storia, qualcosa ne verrà fuori. Ciao a tutte e tutti da Frey, Debs e Olga. Ben ritrovati con Van Loon, la vostra mezz'ora di storia del sabato pomeriggio in onda il sabato su 103.1 FM di Radio Città Fucico e disponibile a partire dal lunedì sul nostro sito www.radiovanloon.info. Siamo arrivati alle battute finali. Queste sono decisamente le battute finali di un anno di programmazione che è stato veramente intenso. Non ci siamo mai tirati indietro di fronte alle scadenze del nostro calendario civile di cui abbiamo parlato spesso, che abbiamo arricchito con una serie di appuntamenti di diverso tipo. Non ci siamo mai tirati indietro di fronte alle necessità e alle scadenze che ci dava il dibattito contemporaneo. Noi non l'abbiamo fatto, infatti siamo arrivati alla fine di quest'anno di trasmissioni piuttosto stanche e stanchi, questo è sicuro, ma dall'altro lato qualcun altro invece non l'ha fatto. Constatiamo alla fine di questo lungo anno di trasmissioni che abbiamo fatto veramente sgomitando per le restrizioni date dalla pandemia, dall'attuale emergenza sanitaria. Quello che possiamo riscontrare è che nel dibattito pubblico, nel dibattito anche sui giornali, che sono sempre stati una nostra grande passione, alcuni argomenti mancavano o venivano trattati piuttosto male. Per questo speciale conclusivo di quest'anno e di oggi abbiamo voluto proseguire in questo nostro sforzo di attenzione nei confronti delle scadenze del dibattito storico e del dibattito pubblico. Per cui abbiamo deciso di parlare di argomenti di cui avremmo voluto parlarvi nell'arco di quest'anno di trasmissioni, di cui magari vi parleremo nell'arco del prossimo anno di trasmissioni, che però non siamo riusciti ad affrontare perché ce ne mancavano le energie. Veniamo ai miei consigli per quest'estate. Consigli forse non semplicissimi, ma che vale la pena di seguire. Perché? Perché il primo, innanzitutto, riguarda una ricorrenza fondamentale che è parte di quel calendario civile nostro a cui facevo riferimento prima. Quest'anno, come penso sappiate, ricorre il ventennale del G8 di Genova, un momento che magari non abbiamo vissuto da protagonisti per motivi anagrafici, ma da spettatori, che però riconosciamo come un momento chiave della nostra storia. Ecco, e parlare del G8 lo faremo, diciamo, la prossima settimana con note a piedi pagina, piccola anticipazione, ma allo stesso tempo avremmo voluto parlare maggiormente del G8 e in particolare c'era un appuntamento di questo ventennale che varrebbe la pena secondo noi ricordare, che era stato quello del ventennale di Punto G, quindi genere e globalizzazione per una società di donne e uomini equa, solidale, pacifica e democratica. Un appuntamento che ricorse proprio nel 2001, all'incirca un mese prima del controvertice di luglio, fra il 15 e il 16 agosto, ci fu un appuntamento molto importante di movimenti delle donne, movimenti femministi da tutto il mondo per fare un punto globale su questa storia. Per parlare di Punto G vi suggeriamo Punto G, il femminismo al G8 di Genova 2001-2021 di Monica Lanfranco, edito da Banda Edizioni. Oltre a questo libro, sul nostro sito www.radiovanloon.info troverete anche i riferimenti per approfondire questo discorso. Monica Lanfranco è stata una delle protagoniste di Punto G, di questo appuntamento che si tenne nel 2001, e oltre a firmare questo libro firma una serie di altri approfondimenti disponibili in rete. Il primo che vi consiglio in tandem con il libro, diciamo, è un bellissimo podcast realizzato da Radio delle Donne, che è dedicato proprio a Punto G e all'appuntamento del G8 dal punto di vista delle donne. Rimanendo sempre sui consigli per quest'estate, ve ne do un altro, che questo ha proprio il sapore di Van Loon. Come sapete, uno dei nostri focus è quello delle biografie, o meglio della storia attraverso i percorsi di vita, per cui non potevamo non suggerirvi anche una biografia. Quella che vi raccomandiamo per quest'estate è Siamo noi a far ricca la terra, romanzo di Claudio Lolli e dei suoi mondi, edito da Minimum Fax. L'autore è Marco Rovelli, che è stato ospite delle nostre trasmissioni in occasione del 150esimo anniversario della Comune di Parigi. Abbiamo presentato il suo libro dedicato a Louise Michel. Torna in libreria con questa bella biografia dedicata a Claudio Lolli, il cantautore bolognese. Una figura interessante da riscoprire che, come racconta Marco Rovelli stesso in un bellissimo articolo che vi suggeriamo di recuperare, La poesia di Claudio Lolli è un conflitto messo in musica, pubblicato sul Domani, giovedì 17 giugno 2021, racconta di Claudio Lolli come la storia di una generazione. È una tematica questa interessante, quindi un bel libro per coniugare biografia e racconto del passato. E aggiungo il mio consiglio musicale, anche questo rientra in quello di cui avremmo voluto parlare ma non c'è stato tempo di parlare, i Sons of Kemet, una jazz band britannica capitanata da Shabaka The Hatchers, se l'ho pronunciato correttamente, esce con un disco, Black to the Future, una bella riflessione sul Black Power e sulla storia dei movimenti afrodiscendenti o movimenti neri, come si dice. È una bellissima canzone, quella con cui vi saluto e che vi diamo appuntamento anche con quest'altra storia. Sui 103.1 di Radio Città Fujiko. Sono Debs, siamo su Van Loon, l'ultima puntata della nostra stagione prima dell'interruzione estiva. Tocca anche a me dare i miei suggerimenti estivi e, come dicevamo all'inizio, il filo rosso di questi suggerimenti sono le tante cose di cui non abbiamo parlato durante l'anno ma che ci sarebbe piaciuto affrontare. Io ho scelto tre libri, uno per i temi e gli altri due per la loro forma, diciamo, narrativa, perché, come forse diremo anche più tardi, la questione di come si parla di storia e di cultura quest'anno ci ha reinsegnato che è davvero molto importante, che forse non basta più il saggio e l'articolo, che anzi a volte non c'è d'aiuto e non per forza la forma narrativa coincide con una qualità. Quindi il primo libro che cito è un fumetto e parla di un argomento che ci sta molto a cuore, ovvero le sottoculture e la musica. Il fumetto parla della scena rave italiana degli anni 90, si intitola Cassa Dritta, è uscito per la Cocoino Press e l'autore è Roberto Grossi. Il fumetto ci racconta una storia ambientata a Roma, a metà degli anni 90, l'era gloriosa della scena rave italiana. E la storia è un gruppo di ragazzi che cerca di andare a una festa e riproponendoci tutto l'immaginario di quello che erano i freak techno, dal modo in cui si arrivava alla festa, ovvero un mondo senza internet, senza Google Maps, in cui davvero la sicurezza delle comunicazioni era una cosa importante, e alla festa ci arrivavi solo se incontravi il passaparola. E inoltre, essendo un fumetto, una quindi qualcosa che parla con le immagini, ma parla di qualcosa che si sente, cioè la musica, abbiamo la possibilità di vedere l'estetizzazione e tutto, diciamo, l'immaginario di una sottocultura, in questo caso dei frequentatori e le frequentatrici, appunto, della scena rave, che avevano un loro stile, un loro modo di vestirsi e di comportarsi. E inoltre possiamo vedere anche il famoso muro di casse. Perché, come sappiamo, i rave non erano solo musica, ma era anche riappropriazione di uno spazio. Leggo una piccola citazione per concludere. È ora di togliere il coperchio che copre questa città di macerie, questa gigantesca pentola dimenticata sul fuoco a bollire, piena di rabbia covata, di frustrazioni represse e di costrizioni subite. Togliamo il coperchio e facciamoli ballare. L'altro libro che cito, lo segnalo sopra, non solo per la persona di cui parla, ma anche appunto per la forma narrativa scelta. Il libro si chiama Laura non c'è, dialoghi possibili con Laura Conti, ed è edito da Fandango, a firma di Barbara Bonomiro Magnoli e Marina Turi. Il libro ha lo scopo di parlare di Laura Conti, una donna molto importante per la storia delle lotte ambientali in Italia, alla quale però non si è data abbastanza importanza. Laura Conti ha avuto una vita caratterizzata dall'impegno civile, tant'è che è stata partigiana, medica, ambientalista, politica e scrittrice e fondatrice di Lega Ambiente. In questo libro della Fandango gli autrici portano avanti un dialogo e per un'intervista rilasciata a Menti Sommerse dichiarano: abbiamo immaginato Laura Conti nel presente, con i suoi 100 anni, volevamo che parlasse le donne di oggi su questioni che sono simili a quelle affrontate da lei. I dialoghi hanno permesso di lavorare meglio a quattro mani e di intrecciare meglio le nostre scritture, cercando di mantenere una narrazione fruibile ai non esperti, ai non addetti ai lavori. Noi volevamo che a parlare fosse proprio Laura Conti. Infatti tutto quello che nel libro facciamo dire a lei sono parole sue, ricavate da quello che ha scritto e che noi abbiamo potuto leggere. E poi non ci sembrava fosse interessante scrivere un nostro monologo. L'ultimo libro che vi consiglio è un libro che ho scelto non per la forma, perché è un saggio, ma per il tema. Non potevamo ovviamente ignorare un libro pubblicato da Einaudi con il titolo Queer, storia della comunità LGBT+, che ha scritto Maya De Leo. E ovviamente il libro è abbastanza esplicito, insomma, queer è una di quelle parole che sicuramente tutti e tutte abbiamo imparato ad apprezzare, a conoscere e a far parte non solo del nostro dibattito culturale, ma anche delle nostre lotte politiche, non da ieri sicuramente, ma sappiamo che siamo pur sempre in Italia. Quindi ben venga questo libro. È un libro che appunto ha il merito di essere un libro di storia appunto sulla comunità, e quindi di dare un quadro storico e cronologico e di usare delle fonti di vario tipo, dalla memoria realistica e documenti di criminologia, quindi un impegno davvero importante. Un libro che appunto accogliamo davvero ben volentieri e speriamo davvero di parlarne il prossimo anno con una puntata dedicata, ma un libro che anche ci ricorda quanto il nostro dibattito culturale rispetto ad altri ambienti è ancora indietro, se nel 2021 dobbiamo essere contente se un libro sulla storia della comunità esce ora nel 2021. È un libro di storia perché secondo me mette al centro una complessità. Nel senso, ci ricorda l'eterogeneità dei processi storici e delle comunità di cui si vuole parlare. E cito per concludere davvero un pezzo dell'introduzione, della premessa, scritta dall'autrice, che lo dice sicuramente meglio di me. Il mio obiettivo è stato quello di interrogare storicamente il processo che conduce all'individuazione di un gruppo della popolazione accomunato da alcuni tratti che sfuggono alle norme su genere e sessualità dell'età contemporanea, messa a punto teoricamente nell'Occidente europeo e nordamericano tra il XVIII e il XIX secolo e contestualmente tradotte in pratiche concrete che ancora oggi regolano le nostre vite. La comunità così individuata non è qui considerata come un gruppo omogeneo. Al centro di questo libro si trovano al contrario proprio le differenze e i conflitti tra le varie soggettività ed esperienze che animano un insieme eterogeneo, dislocato su scenari culturali e geografici profondamente diversificati. Io vi saluto, vi do appuntamento al prossimo anno, ma vi lascio con il mio consiglio musicale, ovviamente una produzione del 2021, che è Polaris de Casino Royale. Casino Royale perché ovviamente una redazione come Valloon non può che non piacere un gruppo come Casino Royale, perché insomma il nostro cuore batte comunque negli anni 90, ma questo album è davvero, dopo 10 anni, qualcosa di innovativo che in parte probabilmente ci ha lasciato un po' a bocca aperta, ci fa comunque ancora emozionare, e ascoltiamocelo il prossimo anno, lo rimettiamo su Valloon. Buona estate. Skip it on. sai. L'alma presente, passata, futura, è la paura. È la paura. L'alma presente, passata, futura, è la paura. È la paura. Ben ritornate su Balloon 603.1. Adesso passiamo la parola ad Alessia, che ci ha mandato i suoi consigli letterari, poiché non è con noi in studio, ma anche lei ovviamente la risentiremo il prossimo anno. Vai Alessia. Cari ascoltatori e cari ascoltatrici di Balloon, carissima redazione di Balloon in studio, come avrete capito vi parlo da un posto molto lontano da Bologna e anche dall'Emilia Romagna, infatti sono sulla riva di una spiaggia ancora molto assolata e da qui vi darò i miei consigli di lettura per l'estate e le proposte per la prossima stagione. Infatti quest'anno avrei voluto dedicare una puntata a un bellissimo libro di Simone Brioni e Daniele Comberiani, che si intitola Ideologia e rappresentazione, percorsi attraverso la fantascienza italiana, edito da Mimesis nel 2020. Come vi ho accennato, è un progetto solo rimandato, nulla ci impedisce di tornarci il prossimo anno e crearci attorno una bellissima puntata, magari anche con un'intervista. Come dicono i due autori, la fantascienza in Italia è stata spesso vista come un genere importato dall'estero e slegato da problemi della quotidianità. Questo libro invece che vi propongo restituisce la fantascienza italiana attraverso un'indagine che passa per il cinema, la narrativa e i fumetti, uno spazio all'interno degli studi culturali e degli studi sulla storia culturale dell'Italia contemporanea. La fantascienza è un fenomeno complesso che però interagisce con la cultura popolare, tenta anche in qualche modo di influenzare l'immaginario dei lettori e degli spettatori. È un genere che però ha anche mostrato nel passato e nel presente dimensioni di conflitto culturale, di conflitto tra sessi, tra razze, tra esseri umani e tecnologia. È vero che principalmente per quanto riguarda il cinema si è ispirata a modelli stranieri, ma nonostante questo la società italiana, la cultura italiana ha portato all'interno della fantascienza di questo genere la propria storia e i propri orizzonti, a partire in particolare dagli anni 60 e 70 abbiamo visto la fantascienza inserirsi in un contesto ideologico e politico in continua trasformazione, ha infatti attinto alla questione di genere del movimento femminista, alle critiche nei confronti del marxismo, al timore verso la repressione, i fenomeni di controllo sociale e alle prime forme di ecocritica contemporanea. Poi vi lascio un bel romanzo come consiglio per l'estate ed è il romanzo d'esordio di Paul Mendes che si intitola Latte arcobaleno, edito da Blue Atlantide quest'anno nel 2021 ed è consigliatissimo anche dalla pluripremiata scrittrice Bernardine Evaristo di origine britanniche e nigeriane che abbiamo virtualmente ospitato sulle nostre frequenze qualche mese fa a proposito del suo bel romanzo dal titolo Ragazza, donna, altro, che è uscito per Big Sur e vi consiglio di andarvi a recuperare sul nostro fantastico sito il podcast. Quello di Paul Mendes ora è un romanzo di formazione, in parte autobiografico, nel quale il protagonista è un giovane della working class di origini giamaicane, nato nel nord dell'Inghilterra, in particolare nella zona che viene chiamata Black Country, e che viene cacciato dalla sua comunità di testimoni di Geova, nella quale è nato e cresciuto perché è omosessuale. È un romanzo molto ritmico e anche ricco di musica pop, di Britpop, di R&B, di soul e di soul dance dagli anni 80 a oggi. È pieno di sesso e di profonde riflessioni su cosa significhi essere neri, working class e omosessuali nella Gran Bretagna di oggi, ma anche nell'Europa di oggi. E sulle note di Inner City Blues di Marvin Gaye, che viene citato nel libro di Paul Mendes, vi saluto e ci risentiamo a ottobre. Ciao! Bentornate e bentornati su Radio Città Fujiko, questo è Balloon della vostra mezz'ora di storia. Siamo arrivati all'ultima puntata, come ci hanno ricordato Frey e Deborah, e tocca a me con i consigli letterari, cioè i consigli, cioè i libri che avrei voluto citare in quest'anno, ma chissà se citeremo l'anno prossimo. Parto subito con La Resistenza. Il libro è di Maglio Calegari e si chiama La sega di Hitler, uscito nel 2004 ma ora ripubblicato da Edit Press, che avevamo già incontrato nel novembre del 2020 con Gabriele Moscaritolo e la storia e il racconto del terremoto dell'Irpinia. Una veste rinnovata con prefazione dello storico Santopeli. Maglio Calegari sicuramente lo conoscete, è uno storico di lunga data, è nato nel 39 e per la storia della Resistenza aveva già scritto Comunisti e Partigiani, Genova 42-45, scritto nel 2001, dopo molti anni di ricerca sul tema. La sega di Hitler, questo strano titolo, è il soprannome dato dai partigiani ad una mitragliatrice tedesca ritrovata nel 1985 in una grotta nei pressi di Genova e nascosta lì chiaramente 40 anni prima. Quest'arma apparteneva al gruppo di partigiani chiamato Brigata Balilla, gappisti genovesi che erano transitati prima dalle montagne dell'Appennino Ligure e poi in seguito ad uno scampato rastrellamento dell'aprile 44 si erano dati un'altra chance, tra virgolette, erano diventati partigiani in città, cioè GAP. Il capo che sceglie personalmente i suoi, e parliamo di un piccolissimo gruppo di massimo 20 persone, si chiama Battista, e dal dicembre 44 fino alla fine della guerra, quindi siamo già ad aprile, la brigata si rende protagonista di azioni spettacolari. Sparatori, agguati sono il loro pane quotidiano, eliminano tantissimi nazifascisti subendo solo 2 perdite. Caligari ci racconta la storia di questi strani partigiani, eleganti, con barbe fatte e capelli corti, ma la racconta scrivendo un libro che non è un saggio e non è un racconto, ma che si regge sulle testimonianze proprio dei protagonisti, che si raccontano a più riprese. Man mano che sfogliamo le pagine, vediamo come il ricordo e la memoria prende vita, e, prendendo vita, cambia anche col passare del tempo. Dipanando una storia veramente incredibile che fa uscire il partigiano con la P maiuscola dai gangli della monumentalità a cui siamo abituati, una monumentalità un po' stantia, per tornare a ciò che è veramente uomini in carne ed ossa che soffrono e hanno paura. E come dice uno dei protagonisti, il partigiano Mauro, la guerra ti travolge e ti obbliga. L'altro consiglio di lettura che ho scoperto, devo dire quasi per caso, ma vale la pena soffermarsi prima sulla casa editrice di questo libro, che si chiama Rina Edizioni, che nasce con l'intento di ristampare scrittrici dimenticate, e leggo dalla loro pagina, riportando alla luce l'esperienza e il contributo di donne estromesse dal canone letterario. Ed eccoci qui che ho scoperto Non sono vinta, raccolta in scritti tra anarchia e antifascismo di Virgilia D'Andrea, anarchica abruzzese nata a Sulmona nel 1888 e morta in America, negli Stati Uniti, a poco più di 40 anni. Virgilia D'Andrea è stata una maestra elementare e insegnava nelle scuole povere della Marsica, la subregione abruzzese, quella per capirci di Ignazio Silone e dei Cafoni. Sopravvissuta nel 1915 al distruttivo terremoto di Avezzano, diventa, sempre ad Avezzano, rappresentante delle donne socialiste abruzzesi. Nel 1917 però incontra Armando Borghi, che è una figura di spicco dell'anarchismo e dell'USI, l'Unione Sindacale Italiana, che sarà il suo compagno per tutta la vita. Così, oltre ad Armando Borghi, Virgilia D'Andrea incontra l'anarchismo. Scrive per Guerra di Classe ed è a Bologna. E poi nel 1920 con Enrico Malatesta fonda Umanità Nuova. Gira l'Italia e l'Europa per diffondere l'idea anarchica e si spende in prima persona per Sacco e Vanzetti. In questo libro leggerete stralci di poesie scritte da lei e articoli scritti sempre dalla Virgilia D'Andrea negli anni 20. Virgilia D'Andrea mi fa pensare che sarà probabilmente una delle protagoniste della nostra novità per la prossima stagione. Una novità a metà, perché vogliamo riprendere quello che abbiamo già fatto per il centenario del PC, cioè Rosse tra i Rossi, ovvero storie di donne anarchiche, libertarie, comuniste e socialiste tra gli anni 20 e il 30. Storie che la maggior parte delle volte sono dimenticate, ma che veramente vale la pena di riprendere, vale la pena di dare voce a queste protagoniste di cambiamenti epocali che in massima parte sono stati sempre descritti e raccontati da uomini. Anche io vi saluto per quest'estate, riposatevi, e vi ricordo che per riprendere e riascoltare le puntate di Vallun c'è sempre il nostro sito www.radiovallun.info e buona estate!